Dimmi se sei un uomo vero, un pistolero. Sai già dove mirare, amore criminale. Mi chiami e non rispondo su FaceTime. Ho un bikini solo per te, ma non mando foto in direct. Non faccio mai la fila per il club. Ti raggiungo dentro prive, ma tu parli solo di te. Hai castelli di carte di credito, mi dai tutto quello che ti chiedo. Prometti l'oceano pacifico, il circolo artico. Ma dimmi se sei un uomo vero, un pistolero. Poi dimmi una bugia per farmi solo tu. Io vodka sour, saremo ancora qui fino alla golden hour. Nessuno attorno, sembra Sahara. E non ti preoccupare per il mio mascara. Dimostrami chi sei oppure vai. Io voglio un bandito con me, che mi tratti come Beyoncé. Hai castelli di carte di credito, mi dai tutto quello che ti chiedo. Prometti l'oceano pacifico, il circolo artico. Ma dimmi se sei un uomo vero, un pistolero. Poi dimmi una